Job 24. È una puntata al femminile quella di oggi di Job 24. Per le mamme lavoratrici o potenziali tali, il gruppo 24 ore ha organizzato un'iniziativa molto interessante, direi da non perdere per chi è o può raggiungere Milano sabato 23 maggio. Si tratta di MAM 2009, Donne, Mamme, Lavoro e Rete, una giornata in cui verranno date indicazioni concrete e operative su come conciliare famiglia e lavoro, su come reimmettersi nel mercato del lavoro dopo una maternità, su come avviare un'attività imprenditoriale al femminile. Tra i relatori, Francesca Contardi, direttore generale di Page Personnel Italia, spiegherà alle mamme come proporsi per un impiego in azienda. Io le ho chiesto di anticipare a Gio 24 qualche consiglio. Il primo consiglio che io posso dare ad una mamma che ritorna al lavoro è di avere le idee chiare, cioè di prendere un po' di tempo per se stessa, di mettere per iscritto, quindi di cominciare veramente a valutare che cosa si vuole da un lavoro, quanto tempo si ha a disposizione e soprattutto dove ci si vede fra qualche anno, perché chiaramente nel momento in cui si torna al lavoro, magari i bimbi sono ancora piccoli, si ha ancora bisogno di dovergli dedicare tanto tempo, ma dopo un certo numero di anni poi i bambini crescono e quindi le persone hanno bisogno di essere di nuovo operative al 100%. Quindi il mio primo consiglio è di avere le idee chiare, perché è una delle prime difficoltà che riscontriamo durante i colloqui. Il secondo consiglio è quello magari di riprendere in mano quelle che sono state le esperienze precedenti. Spesso si pensa che la maternità è un momento di buco totale nel quale si perdono completamente tutte le competenze. Non è assolutamente vero, bisogna rifare tesoro di quello che si è fatto nel passato e rinfrescare quelle che potrebbero essere magari delle nozioni che si sono perse, quindi approfittare del fatto di essere a casa per magari ascoltare qualche film in inglese piuttosto che leggere qualche libro se si è svolto dei lavori un po' tecnici su quali c'è bisogno di essere un po' più aggiornati, piuttosto che magari di navigare su internet per cercare di capire se ci sono state delle novità. L'altro punto è come si rientra al lavoro, nel senso che una delle domande che mi viene più spesso fatto è quale può essere la possibilità di contratto, quindi partendo da un concetto che una donna ha lasciato il lavoro, bisogna secondo me essere un po' flessibili, nel senso che oggi il mercato del lavoro è un mercato che offre tante possibilità di contratto, quindi partendo dai contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, i contratti a termine, ci sono dei contratti professionalizzanti fino ad arrivare chiaramente al contratto a tempo indeterminato. Non bisogna secondo me avere la foga di avere subito il contratto a tempo indeterminato, perché spesso il passare attraverso forme di flessibilità può essere un ottimo modo sia per la mamma di capire l'azienda nella quale si va, se piace il lavoro, se quello che si fa può essere interessante, sia da parte dell'azienda valutare bene la persona. Quindi è un buon modo per incontrarsi da entrambe le parti. Grazie a Francesca Contardi di Page Personnel Italia. Si parlerà di questo e molto altro in occasione di MAM 2009, Donne, Mamme, Lavoro e Rete. Ci saranno anche testimonianze di mamme imprenditrici, mamme blogger, mamme creative. L'appuntamento, lo ricordo, è per sabato 23 maggio a Milano presso la nostra sede, la sede delle Sole 24 Ore in via Monterosa 91. L'ingresso è libero, basta registrarsi al sito www.fattoremamma.it. Per riascoltare invece radio24.it. È tutto, un saluto da Roberta Pellegatta. Hi-ho! Hi-ho!